Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. C'è un mercato e una filiera dalla materia prima al negozio che fa della relazione umana il proprio capitale, del cooperativismo e dell'associazionismo il proprio punto di riferimento, dell'educazione e dell'informazione al consumatore il proprio valore aggiunto e della giustizia sociale ed economica infine il proprio obiettivo. È il commercio equo e solidale, un mercato che oggi in Italia vale oltre 78 milioni di euro e che resiste nonostante la crisi. È anche e soprattutto un movimento che ha deciso di darsi appuntamento a Milano, la città di Expo 2015, con il più grande evento mai realizzato per il settore, per raccontare il proprio modo di nutrire il pianeta. Vegetariani ai vegani, passando per i crudisti ma anche i seguaci della dieta senza muco, della macrobiotica, dell'alcalina e della paleodieta. Ebbene sì, paleo come paleolitica. I regimi alimentari alternativi fanno tendenza e diventano stili di vita, oggetto delle conversazioni sui social e fattore identitario. Nella seconda parte parleremo poi di turismo 2.0 e di umanesimo digitale. Il commercio equo e solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale. Promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Il commercio equo e solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, dai produttori ai consumatori. Partiamo da qui, dalla definizione, per parlare di commercio equo e solidale e dell'evento che nei prossimi giorni, dal 23 al 31 maggio, farà di Milano la capitale mondiale del settore. Nella città di Expo 2015 la World Fair Trade Week accenderà i riflettori su temi quali sovranità alimentare, giustizia, ambiente e diritti, con 6 eventi che riuniranno espositori, ristoratori, ricercatori universitari, imprenditori e fashion maker dell'economia sociale e solidale provenienti da oltre 55 paesi nel mondo. Ancora oggi 70.000 bambini, pensate, lavorano come schiavi nelle piantagioni di cacao. Ora l'industria della cioccolata lo sa, questo modello non ha più senso, ci ha detto Rudy Dalvai, che è il presidente del WFTO, l'Organizzazione Mondiale del Fair Trade. Quello che sicuramente si nota è che aziende che fino a qualche anno fa non avevano nessuna attenzione per le persone, non avevano nessuna attenzione per l'ambiente, ad un tratto iniziano a usare un linguaggio dove dicono loro sono socialmente responsabili. Questo ci fa molto piacere, speriamo che oltre alle parole passano anche ai fatti e che usano veramente un pochettino più sensibilità per evitare molti disastri che stanno avvenendo, disastri ambientali. Smettono di comprare le terre dai poveri per accumulare, investire capitali per sfruttare queste terre. Speriamo che questo è una cosa che cambia, piano piano sta cambiando, per noi è ancora troppo piano, per cui noi andiamo avanti come commercio eco a far vedere un'altra strada per fare commercio eco, per fare economia, commercio a livello internazionale. Anche i produttori piccoli, i produttori nei luoghi d'origine stanno acquisendo consapevolezza sul loro valore e sui loro diritti. Assolutamente, questo è uno dei principi fondamentali, dare dignità alle persone. Noi riusciamo anche a portare qua persone, piccoli produttori da 60 paesi diversi che saranno qui presenti, che conosceranno il mondo dove vengono venduti i loro prodotti. Questo scambio culturale che serve anche a riconoscere altre culture, anche a rispettare altre culture, cose che proprio in questo momento dell'immigrazione, per esempio, è importante che noi rispettiamo le altre culture e vediamo, riconosciamo anche i valori che stanno dietro altre culture. Quindi il commercio equo è garantito, sono anche tante storie da raccontare, anche al consumatore. Tantissime storie, non basterebbero giornate di interviste per raccontare tutte queste storie. this enormous, rapacious industry that is generating so much profit, why is it that it is unable to support millions of its workers properly? The actual business model is completely unsustainable. Unless you change that model, you can't change anything. When everything is concentrated on making profits, what you see is that human rights, the environment, workers' rights get lost. My God, we can do better than this. Quello che sentite in sottofondo, lo trovate sulla nostra pagina Facebook, è il trailer di The True Cost, il docufilm sull'industria della moda presentato al Festival di Cannes. Uscirà nel mondo il 29 maggio. L'anteprima italiana si terrà proprio ad uno degli eventi della World Fair Trade Week, quello dedicato alla moda etica e sostenibile. Questa settimana, tra l'altro, si è avuta notizia dell'ennesima tragedia, l'incendio in una fabbrica di infradito a Manila, nelle Filippine. Incendio costato la vita ad oltre 70 persone. La sensibilità del consumatore sta cambiando. Il nostro può essere un modello per tutte le filiere, ci ha detto Alessandro Franceschini, che è il presidente di Equo Garantito, l'Assemblea Italiana del Commercio Equo e Solidale. Noi abbiamo 50 anni di storia, di rapporti con i paesi del sud del mondo per quanto riguarda proprio l'alimentare, quindi la produzione di prodotti soprattutto coloniali, e quindi abbiamo un'esperienza di alternativa, ma importantissima, e quindi non più solo una testimonianza, ma un'esperienza concreta di come si possono mantenere delle relazioni basate sul dialogo, sul rispetto e anche su un pagamento di un prezzo equo concordato con i produttori. Ci sembra che l'esperienza del commercio consolidale, che a Milano appunto avrà in questa settimana mondiale del commercio equo, veramente forse l'evento più importante mai organizzato al mondo da organizzazione di commercio equo, perché c'erano oltre 300 produttori presenti, ecco, ci sembra che questo evento voglia appunto possa sottolineare questo aspetto. Noi abbiamo dei contenuti importanti, abbiamo una storia e abbiamo anche delle scommesse per il futuro, cioè siamo convinti che non si può riscrivere, ripensare allo sviluppo sostenibile con i paesi del sud del mondo senza andare a sentire i produttori, che sono la base di questa filiera, quindi i contadini e gli artigiani che ogni giorno producono il caffè, il tè, il riso che poi arrivano sulle nostre tavole. E il commercio ecosolidale in questo senso ha veramente delle pratiche ormai dimostrate che funzionano e che possono essere appunto un contributo importante per questo dibattito. Come stanno cambiando gli equilibri nella filiera? Quanto iniziano a contare organizzazioni come la vostra, sistemi di produzione attenti al luogo, alle tradizioni, al mantenimento anche del valore produttivo nei luoghi d'origine? Beh, questo è interessante, perché sia il sud del mondo i produttori si stanno strutturando meglio tra di loro, quindi stanno iniziando a fare veramente economie di scala e ad avere anche un maggiore peso politico, ma soprattutto la nostra impressione è che stia cambiando finalmente la sensibilità dei consumatori qui, e sono i consumatori che decidono l'andamento del mercato e le tendenze del mercato. I consumatori sono sempre più attenti non solo alla qualità del prodotto, ma anche alla qualità del lavoro che ci sta dietro al prodotto, e io sono convinto che non ha nessun senso uscire dalla crisi economica che ci ha colpito a livello globale con gli stessi meccanismi che a quella crisi hanno portato. Quindi dobbiamo trovare delle strade nuove. Noi abbiamo delle indicazioni, abbiamo appunto delle idee e vorremmo appunto condividere con più persone possibile. Professor, ma voi fate qualche dieta? Magari. Ma cosa intendi tu per dieta? La dieta del fantino, del pilota, messe cresce, castadallo, watch watch. Bacco, ma sei un vero e proprio dietologo. Quasi quasi. E tu che dieta fai? Nessuna dieta, perché a casa mia si mangia normale. Cioè? Pasta e fagioli, brodo di polipo, polli detti con olive e chiapparielli, zuppa di carne cotta, ragù, vermicelli e olio, carne di porco, soffitto, piselli, uova, polpette, salsicce, pizze, pizzette, cachi, pere, ciliegie, dattili e melloni. Mi fai venire una fame? E per dolci, babà, sciuscia, cioccolata a crema, pastiera, mille foglie, zippole di San Giuseppe, cannolava siciliana, deliziose sfogliatelle, struffoli e roccocò. E questo sarebbe il pasto normale? Sì, ma mica tutto in un giorno. E che teniamo, il cannellone sfondato? Esofago sfondato. Abbiamo cambiato argomento, siete più veg o più paleo? Amate il gusto glutammato, la cinesata oppure i grani antichi, il cibo non processato e la macrobiotica? Sto citando alcune delle tendenze alimentari emergenti che popolano le discussioni su web e social network e influenzano i consumi alimentari. Non più solo dieta mediterranea, i regimi alimentari alternativi si moltiplicano, fanno tendenza e ovviamente dividono. A mettere ordine in questa selva di slogan e precetti ha pensato Squadrati, è una società di ricerca di mercato che in occasione di Expo 2015 ha realizzato il quadrato semiotico degli stili alimentari. Andate a vederlo sulla nostra pagina Facebook, ce lo siamo fatti raccontare da Diletta Sereni. Dal quadrato, che non è altro che un piccolo scenario dei regimi alimentari, degli stili alimentari, abbiamo evidenziato come ci siano due stili alimentari emergenti, che sono appunto quelli del mondo paleo e quelli del mondo veg. In particolare l'alimentazione paleo è un'alimentazione che elimina i carboidrati, si ispira ai consumi dell'uomo paleolitico, che appunto era un cacciatore-raccoglitore, non un coltivatore-allevatore, e mangia soltanto gli alimenti che mangiava l'uomo paleolitico. Lo fa con una motivazione di salute e benessere, cioè stare in forma, perché chiaramente eliminando i carboidrati si potenzia anche il fisico e per tenere basso il livello di glicemia nel sangue. Contrapposto a questo mondo ovviamente tutto il mondo invece veg. Ecco, il mondo veg, che è chiaramente molto meno di nicchia rispetto a quello della paleo, anzi è in grossa ascesa, all'interno del quale noi abbiamo inteso sia vegetariani che vegani, che tutti poi crudisti, macrobiotici, si basa su un assunto contrario, cioè se i paleo mangiano tanta carne e prodotti animali, il mondo vegano riduce o nel caso dei vegani proprio azzera i consumi di prodotti animali. Anche qui l'istanza di partenza, cioè per cui si fa questa scelta, è molto spesso di salute, ma anche, a differenza dei paleo, ecologica e etica, perché molti vegani appunto non mangiano prodotti animali per il rispetto degli animali. In questa zona del quadrato vedo la dieta senza muco, che cos'è? Ma in realtà se vai a vedere poi è praticamente un'alimentazione vegana, però viene specificato l'obiettivo, che è quello di ridurre i muchi all'interno dell'organismo, e diciamo che gli alimenti a cui viene attribuita la capacità di produrre muco sono quelli animali, per cui carne e altri prodotti animali come formaggi, per cui eliminando quelli in teoria si ripulisce anche l'organismo dal muco. Dal vostro quadrato emerge chiaramente ormai i regimi alimentari, poi raccontiamo anche gli altri due estremi, sono stili di vita, sono diventati, voi lo sottolineate, un fattore identitario. Esattamente, cioè la cosa che ci ha spinto a occuparci proprio di questo argomento è che abbiamo visto un cambiamento importante. Cioè se prima le diete erano diete temporanee a tempo o per raggiungere obiettivi specifici, adesso quando si adotta un regime alimentare lo si fa spesso in maniera continuativa e pensando alla propria salute o al proprio stile di vita sul lungo periodo. Quindi molto spesso non sono più collegate a un dover fare, quindi rinuncio a mangiare il dolce perché devo dimagrire, ma a un voler essere, cioè il modo in cui si mangia è diventato a tutti gli effetti un modo per definire la propria identità. Agli altri due estremi del quadrato troviamo la dieta mediterranea e il junk food, perché c'è anche, come dire, una certa rivalsa anche in questo, c'è chi rivendica il diritto a mangiare un po' di schifezze, diciamocelo. Esatto, sì. Sì, la dieta mediterranea è un modello di alimentazione locale che, se vuoi, abbiamo esportato nel mondo, perché si ispira all'alimentazione di alcuni paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tra cui l'Italia, e che però adesso tutto il mondo adotta. La dieta mediterranea comunque si basa su un buon bilanciamento, cioè il mangiare poco di tutto, limitare la carne anche senza eliminarla, mangiare molti cereali, in particolare abbiamo detto integrali, moltissima verdura e anche frutta. Dall'altro lato il junk food sta evolvendo in questo senso, cioè se prima si mangiavano schifezze appunto come guilty pleasure, l'abbiamo definito noi, adesso col dilagare dell'alimentazione salutistica chi sceglie di mangiare schifezze lo fa con un orgoglio, quasi a rivendicare, ecco, la propria libertà dai dettami dell'alimentazione salutare. La dimensione sociale del cibo è in evidenza in modo molto importante. importante. Scegliere cosa mangiare, siamo arrivati a un punto in cui davvero definisce la nostra identità, anche il sapere di cibo e quindi poi appartenere a un certo gruppo di persone è diventato un capitale culturale cruciale. Molto spesso, molto ci capita di parlare di alimentazione anziché un tempo si parlava solo di libri, di film. Sappiamo già che dietro all'alimentazione c'è un universo di valori molto complesso. Parlando di alimentazione stiamo parlando di ambiente, di economia, di politica, di salute. Sembra che finalmente tutti questi valori in gioco nel momento in cui scegliamo il cibo siano più alla portata di tutti, cioè le persone siano più consapevoli di quello che stanno facendo appunto a livello economico, politico, ambientale quando scelgono di mangiare una cosa piuttosto che un'altra. Anche nel turismo le storie diventano protagoniste e grazie alle piattaforme digitali nascono nuovi modi di viaggiare e di esplorare le città. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. La N lì per cosa sta? No, la tua grande avventura in Alaska. Nel paese in cui sto viaggiando, il Tibet, credono che percorrere a piedi lunghe distanze verso i luoghi sacri purifichi le cattive azioni commesse. Credono che più il viaggio è difficile, più la purificazione è profonda. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La Luna ne vista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham. Focus sui trend. È dedicato alle ultime tendenze in tema di viaggio e turismo il focus sui trend di questa settimana in compagnia dei ricercatori di Future Concept Lab. Dalle piattaforme digitali crowdsourced fino alle audioguide 2.0, passando per i tour tematici geolocalizzati, anche il turismo grazie all'innovazione e alla dimensione social cambia faccia. L'esperienza di viaggio personalizzata, le storie personali diventano protagoniste. Ci facciamo raccontare tutto da Isabella Guaitoli. Ciao Isabella. Ciao Maria Luisa, buongiorno a tutti. Allora, qual è lo scenario di riferimento, il contesto di questa trasformazione che sta attraversando anche il mondo del turismo? Il contesto è quello di un settore turistico in cui l'arrivo di piattaforme come TripAdvisor, Booking e anche Airbnb e in generale diciamo il fenomeno della sharing economy ha cambiato le logiche di scelta delle persone, dalla ristorazione agli alloggi fino anche ai divertimenti. Cioè adesso domanda e offerta si confrontano direttamente grazie a queste piattaforme internet di scambio sulla quale poi gli utenti scelgono anche o forse soprattutto in base a quello che altri consumatori come loro raccontano. Comunque a livello generale cresce enormemente l'importanza del fattore umano, a partire dalle storie che vengono raccontate da chi offre ospitalità e servizi di viaggio. La dimensione della narrazione, del racconto personale o collettivo che sia, è quindi diventata più importante per tutte le persone, non solo per un'elite benestante o per gli appassionati dei viaggi di avventura, dei viaggi esistenziali come era tempo fa. Ed è proprio grazie alle nuove tecnologie, come hai anticipato anche tu, che il turismo si è ampliato in modo naturale verso questa direzione, che è quella esperienziale e narrativa. Da quali casi partiamo, Isabella? Ci sono ad esempio nuovi modi per sentirsi più coinvolti dalla cultura dei luoghi visitati o di sentirsi coinvolti in modo più emozionale e profondo, come per esempio nel caso di Passing Stranger, The East Village Poetry Walk, che è un progetto di un produttore radiofonico americano, Malinowski, finanziato qualche anno fa dalla Poetry Foundation americana. È praticamente un audio tour di poesia che si carica come un MP3 sul proprio smartphone e in più una mappa che si segue con il percorso di 2 miglia, poco più di 3 chilometri, all'interno però di un quartiere di New York. Cioè se l'idea comune dell'uso, no, che si fa delle audioguide, quello museale o delle mostre d'arte, questa invece è proprio un'audioguida a tema di un intero quartiere cittadino. Il tour tra l'altro non racconta una storia lineare, offre attraverso la voce del narratore che è il regista Jim Jarmusch un affresco in cui si intrecciano, anche con digressioni e commenti di diverse persone, le opere dei protagonisti della poesia che hanno vissuto nel quartiere e continuano ancora a vivere lì. però dagli MP3, dai podcast, dalle audioguide classiche, in pochissimo tempo si è passati a sfruttare ancora meglio le potenzialità tecnologiche dello smartphone, grazie anche alla geolocalizzazione, e si è arrivati a una vera e propria offerta commerciale molto articolata. Un esempio interessante in questo senso è The Tour, una società americana fondata non a caso da Andrew Mason, che è il creatore di Groupon, che vende audio tour location aware, connessi con il GPS, cioè in grado di rilevare la posizione dal telefono e adattarsi in modo automatico proponendo il brano giusto per quella posizione specifica. Si tratta di un audio tour per camminate turistiche in diverse location della Bay Area, in particolare San Francisco. E una volta che si scarica l'applicazione gratuita, si possono però acquistare i vari The Tour singolarmente a $5 l'uno, oppure ci si abbona a un servizio annuale per $20 l'anno. Non si tratta delle classiche guide su monumenti e luoghi importanti, ma veri e propri racconti radiofonici su storie anche nascoste, personaggi, luoghi particolari della città, storici o persino molto attuali. Per esempio c'è il percorso che si chiama The Tenderloin, un quartiere storico e malfamato della città, che è famoso per le opere dei graffitari, degli artisti indipendenti, che è narrato da John Perry Barlow, l'autore dei testi dei Grateful Dead. Mi hai anticipato anche un caso italiano molto interessante. Sì, è un caso piccolo, ma che porta all'ennesima potenza l'importanza del raccontare le storie personali e la fa diventare proprio parte integrante della sua offerta turistica, e si chiama Destinazione Umana. È una rete di agriturismi e di bed and breakfast che mette al centro le storie dei gestori di queste piccole strutture con le loro esperienze e anche le passioni che loro vogliono condividere con gli ospiti, e non tanto l'offerta materiale di stanze o pernottamenti. Per cui, non so, dal cibo alla scelta di una vita contadina sostenibile o anche a casi di cambiamento di vita radicale. Destinazione Umana è anche un progetto collaborativo perché chiede alle persone, agli utenti, di segnalare loro stessi agriturismi o bed and breakfast che secondo loro hanno le caratteristiche giuste per entrare nella rete, cioè diventare una destinazione umana, e così creano sul sito appunto una mappa di storie spesso nascoste, poco conosciute, che però meritano di essere scoperte. Ecco, in questo scenario blog di viaggio, piattaforme digitali, l'uso dei social ha grande importanza ovviamente. Sì, sì, sempre, a livello internazionale. Un esempio molto carino è Yonderbound, ideata da tre donne manager italiane, ed è una piattaforma di turismo sociale crowdsourced, cioè su questa piattaforma ognuno può pubblicare la propria storia di viaggio e però ricevere in cambio un fee se l'utente decide poi di comprare un pacchetto che è ad essa collegato. Quindi è un modo remunerativo per condividere la propria esperienza. Per adesso ci sono circa 380.000 hotel, appartamenti sparsi in tutto il mondo, con recensioni proposte sia da blogger di viaggio, quindi diciamo esperti tra virgolette, ma anche da semplici viaggiatori che descrivono appunto le proprie esperienze turistiche, indicando anche alberghi, ristoranti e luoghi specifici. Un altro caso interessante, sicuramente sempre italiano, è Viaggiart, una startup fondata da due ragazzi calabresi che punta a facilitare la programmazione dei viaggi in modo personalizzato, ma non attraverso il racconto degli altri utenti, piuttosto attraverso un racconto, diciamo così, più istituzionale, perché Viaggiart fa una razionalizzazione e una riorganizzazione ragionata di quelle informazioni pubbliche o open che già ci sono in rete su luoghi di interesse artistico, su eventi culturali, così via, ma che non sono facilmente fruibili dalle persone, e con queste informazioni creano delle narrazioni intorno a quell'arte italiana che è già segnalata dal Ministero dei Beni Culturali, ma che spesso ha poco visibilità, casomai perché è legata a mete turistiche secondarie, a piccole località. E per accedere a questi contenuti si può scegliere, anche in questo caso, di essere trovati dall'app con la geolocalizzazione, oppure si può cliccare per vedere quali sono i luoghi da scoprire, appunto, che si preferisce. Abbiamo spazio per un ultimo caso, Isabella. Beh, allora completiamo il panorama italiano parlando di Musement, una piattaforma, anche questa, una sorta di editore turistico che seleziona con cura l'offerta giusta di attività ricreative e culturali che si possono fare una volta che si sceglie appunto una meta turistica. Propone delle città e per ogni città c'è una breve descrizione più una composizione molto articolata di attività che vanno dai tour a piedi ai tour in bicicletta o anche in elicottero, percorsi storici, artistici ma anche cinematografici, e dà quindi la possibilità poi di prenotare concretamente i biglietti per esempio per mostre e spettacoli che segnala di diverso genere. Il consumautore. Questo è lo spazio in cui raccontiamo, ci interroghiamo sulle piccole e grandi rivoluzioni in atto nel mondo dei consumi. Lo facciamo come sempre in compagnia del sociologo Francesco Moracci. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buongiorno a tutti. Oggi di cosa ci parli? Oggi vi parlo di umanesimo digitale. Questa è un'espressione lanciata e proposta in particolare da Jeffrey Schnapp. Peraltro vi consiglio di andare anche a seguire una delle sue conferenze, parla un perfetto italiano, pur essendo americano. Jeffrey Schnapp ha creato anche lo Stanford Humanities Lab e propone continuamente questa lettura del mondo digitale e della dimensione di un umanesimo in cui spesso anche l'arte italiana e il Rinascimento viene ricordata, che possono e devono trovare dei punti di contatto. La visione distopica, per così dire, del futuro quando si ha a che fare con la tecnologia, Francesco, in questo momento va molto di moda. Penso ai film, penso ai libri, ecco, qual è, come dire, il tratto insomma conciliatorio in questo? Ma allora, diciamo che si torna davvero a uno scontro quasi epocale tra gli apocalittici e gli integrati, no? Come ecco ci raccontava ormai parecchi decenni fa. Da un lato c'è una scuola che è quella degli apocalittici, tra l'altro è appena uscito un libro comunque molto interessante di Byung-Chul, che già aveva ragionato sulla trasparenza della nostra società, sul rischio dell'anonimato, della privacy. Il libro si chiama Nello sciame e Byung-Chul propone questa visione apocalittica di narcisismo digitale e di incapacità di relazione nel mondo digitale. E poi c'è invece la scuola degli integrati, sicuramente Schnapp fa parte di questa seconda scuola, così come anche Alex Pentland, che ha scritto un libro non ancora tradotto in italiano ma molto interessante, che è Social Physics, dove lui parla proprio di una fisica sociale, quindi la lettura dei big data e di come l'influenza digitale cambia la nostra percezione del mondo. Un'altra delle critiche al sistema digitale è quella di costruire un'elite sia sociale che economica, un hobby digitale che governerà il mondo in modo esclusivo, non inclusivo. Ecco, penso alle trasformazioni che stanno attraversando in questo momento molte aziende italiane per ampliare ovviamente tutto il mondo digitale. Quale consiglio, quale indicazione possiamo dare? Il consiglio è di non chiudersi, arroccarsi su questa visione elitaria, perché io credo che invece la pressione dal basso sarà enorme. Ognuno di noi, ed è qui che l'idea del consumautore gioca le sue carte, ognuno di noi davvero diventerà protagonista. È chiaro che è un fenomeno e una dinamica lunga, ma le aziende più sono convinte della loro identità, più possono aprirsi all'ascolto e alla relazione con gli altri in una sorta di umanesimo digitale. Quindi ogni brand può, io credo, interpretare questa nuova visione. Grazie, a domenica prossima. Grazie a te. E grazie anche in regia ad Andrea Roccabella, radio24.it, sezione programmi, per riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate. La trovate anche sulla pagina Facebook di Essere Avere, insieme ai link, le foto, i video e tutti i contributi aggiuntivi. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.